E siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori, siete sempre in onda su Radio Città del Capo. Abbiamo voluto chiudere così questo flusso splendido da Rev Death 1972, di questo veramente genio degli anni zero, degli ultimi anni, nell'ambito della sperimentazione legate all'ambient flusso, al rumorismo dentro il flusso sonoro. Molti l'hanno definito New Ambient, quello elaborato da T-Maker, è quello che abbiamo ascoltato fino adesso, questo disco splendido uscito alla fine del 2011, un lavoro veramente perfetto dal punto di vista sonoro, oltre che compositivo, uno degli autori veramente più interessanti su questa scena. Molti appunto lo definiscono New Ambient, ma è abbastanza limitativo e anche paradossale definirlo così, un progetto che invece è estremamente aperto e va oltre la dimensione dell'ambient, ma appunto rientra più dentro la dicotomia che abbiamo voluto utilizzare per No Ambient 2 di stasera, cioè dentro il rumore flusso. E appunto la trasmissione è ripartita, la seconda parte di 451 frammenti sonori No Ambient 2, rumore flusso, spazio memoria. Abbiamo aperto la prima parte della puntata di stasera con quattro autori, quattro progetti, Adam Becker in apertura, che poi ha collaborato anche con lo stesso T-Maker in un paio di album, uno addirittura l'hanno costruito interamente entrambe proprio nel 2011. Poi abbiamo ascoltato Rafael Anton Isarri, che è molto più conosciuto come The Side Below, progetto techno ambient molto aperto e molto sperimentale, per poi passare con le citazioni e le memorie legate al passato con Belbo Ripoli, e abbiamo chiuso con un altro personaggio che si lega molto alla memoria sonora, alla memoria del passato. In questo caso Roland Vega aveva il suo riferimento con le musiche degli anni 70, quando lui era bambino. Roland Vega dunque dall'album Documentary, e abbiamo aperto questa seconda parte di 451 frammenti sonori con T-Maker da Rev Death 1972. Ovviamente T-Maker è un autore che è molto ben recensito in questi ultimi anni, ha iniziato la propria carriera musicale in quel di Montreal, dunque è un autore, un musicista e compositore canadese, si è mosso nell'ambito della techno ambient per poi aprirsi sempre di più verso scene legate alla musica sperimentale, rumorista, attraversando dunque tutto l'universo che ha aperto tutta la scena americana, in particolare newyorkese, ma non solo, della nuova scena rumorista degli anni zero, a cui lui stesso ha attinto a piene mani, mixando questa sua attitudine ambientale appunto con questa nuova scena rumorista, che ha attraversato ovviamente anche le sue produzioni musicali, che devo dire abbiamo denotato come 451. Ricordo la trasmissione che abbiamo fatto qualche mese fa su Suburban Waves, questa scena che è molto interessante, che è emersa in questi ultimi 2-3 anni, che mette in gioco la dimensione rumorista con dei riferimenti anche a una certa musica industriale degli anni 80, mixato ovviamente alla dimensione ambientale, creando un suono assolutamente nuovo che T-Maker sicuramente riesce a intercettare, e che abbiamo anche affrontato in questa puntata appunto di qualche mese fa, come scena dove vari autori tra Stati Uniti, Inghilterra, ma anche Nord Europa sta diciamo attraversando, sperimentando appunto queste nuove sonorità attraversate da rumorismo, ambient e anche minimalismo, perché in questo disco l'avrete sicuramente notato, almeno spero che gli ascoltatori l'abbiano notato, dentro appunto il flusso sonoro di questi quattro brani, che poi in realtà sono unificati, ci sono dei momenti dove appunto l'intervento ad esempio di un organo che ripete e sviluppa un suono ipnotico che ricorda anche molto le linee minimaliste, ecco, queste sommatorie producono un suono assolutamente nuovo che abbiamo intercettato appunto in questa puntata di qualche mese fa, che troverete e che, se volete, potrete trovare sul nostro blog. Così utilizzo anche questa presentazione per ricordarlo, il nostro blog, dove potete ritrovare tutte le puntate di questi ultimi 2 anni e mezzo, direi, se non vado errato, con la scaletta in quasi tutte le trasmissioni inserite, non in tutte, purtroppo per problemi vari non siamo riusciti a coprire interamente la playlist degli autori e dei dischi utilizzati dentro le trasmissioni, ma troverete comunque la possibilità di scaricare i podcast, di ascoltarli online su 451frammentisonori.noblogs.org. E Tim Hacker, ritornando al personaggio, ha sviluppato soprattutto in questi ultimi 2-3 anni dei dischi assolutamente innovativi sia a livello compositivo che a livello sonoro, in particolare questo Rev Death 1972 che vi consiglio vivamente, lo stiamo ancora sentendo in sottofondo. E dentro il discorso rumore flusso andremo adesso a incrociare un altro autore, un altro progetto che in passato abbiamo inserito all'interno delle trasmissioni di 451. Anche lui come progetto ha attraversato l'idea di suburban waves, dunque onde, strade suburbane. È un suono effettivamente suburbano quello che attraversa Hacker, ma anche quello che attraversa Circular, progetto nato a metà degli anni 90 dentro la cornice techno ambient, ma anche per una certa techno house, che il progetto poi ha elaborato negli anni inserendo sempre di più influenze di musica contemporanea in alcuni momenti, ma soprattutto ambientale. E in questo sicuramente è inciso la collaborazione e l'influsso diretto che ha avuto soprattutto la formazione ormai piuttosto conosciuta dei Biosphere, che ha sicuramente inciso nelle composizioni dei Circular. Seppur, a differenza dei Biosphere, che si sono sempre più spostati negli ultimi anni verso dimensioni ambientali, con anche momenti molto molto forti di matrice legata alla musica contemporanea, il discorso di Circola rimane ancora dentro una natura, un linguaggio più legato alla musica suburbana, alla musica comunque techno, seppur elaborata, complessa e sperimentale. E il disco che andremo adesso a trovare, dentro sempre il discorso legato a No Ambient 2, è Substance, uscito nel 2009. Disco molto interessante, non sempre dentro punte altissime, ma sicuramente alcuni brani meritano l'ascolto e l'attenzione che noi abbiamo voluto dare a questo progetto. Sempre dentro il nostro percorso Rumore Flusso Spazio Memoria, andiamoci ad ascoltare e a godere il disco Substance Circular, il progetto norvegese strettamente connesso anche al progetto Biosphere, che tante volte sono passati attraverso le frequenze di 451 frammenti sonori. A questo punto viaggiamo insieme a Circular. Thank you. Thank you.

siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un vero e proprio flusso, forse anche in omaggio della trasmissione dedicata appunto anche al rumore flusso, No Ambient 2, ricordiamo ancora, e declinata anche tra appunto questa dicotomia tra rumore flusso e spazio materia. Un viaggio che abbiamo fatto in maniera abbastanza tortuosa, attraversando progetti e sonorità anche molto differenti fra di loro. Ad esempio, anche in questi ultimi 20-25 minuti, questa sorta di flusso creato attraverso una fusione tra un progetto nato dentro l'universo techno ambient come Circular dall'album Substance 2009, e abbiamo appunto intrecciato la sonorità di Circular con una dimensione sonora assolutamente distantissima, quella del Metal Drone, un progetto, quello dei Traum, estremamente interessante, intrigante anche per la sperimentazione a cui sono arrivati questi musicisti, che erano partiti proprio dalla dimensione più legata al metal, seppur sperimentale, seppur rumorista, seppur dronico, a una dimensione sempre più vicina a certe sonorità legate a un ambiente sperimentale, aperta e anche interfacciata con una certa contemporanea, almeno come attitudine, e anche e soprattutto una certa musica industriale che ha attraversato chiaramente progetti come quelli Metal Drone dei Traum, che abbiamo appunto intrecciato con il Circola, per poi inserirsi quasi in una sorta di scivolo sonoro temporale con un progetto veramente altrettanto distante come quello di Fennez e Sakamoto, distante più che tutto come percorso, come sviluppo dei singoli musicisti, Fennez e Sakamoto, da dove arrivano, da dove sono venuti a livello musicale, a livello anche spaziale, come territori, e dove sono arrivati, e sono arrivati attraverso questo splendido lavoro, un doppio CD Flumina, uscito a gennaio 2012 per la Touch, anche a sonorità che a livello di attitudine, di concettualità, sono anche assolutamente comunicanti con progetti come Traum o come Circular. E questo è un po' l'universo che abbiamo cercato di rappresentare sonoricamente, di un certo spazio musicale nuovo che l'abbiamo voluto definire provocatoriamente No Ambient, e che attraversa appunto queste dimensioni sonore e spaziali. E anche qui entriamo dentro il discorso spazio-memoria, per tutti i rimandi anche storici di queste musiche a una certa industriale, a una certa musica sperimentale estremamente aperta e indefinibile, che ha attraversato le sperimentazioni elettroniche, elettroacustiche degli anni 60-70. Si arriva poi in questa summa di una musica nuova che sta attraversando, secondo me, anche a livello sonoricamente perfettamente i tempi storici di questi ultimi anni, e riesce a rappresentare una dimensione assolutamente dentro il tempo e dentro lo spazio che ci stiamo vivendo in tutte le sue accezioni. Fennez Sakamoto, splendido lavoro che sentiamo ancora in sottofondo e che direi può chiudere egregiamente il percorso sonoro che abbiamo cercato di sviluppare questa sera. 451 frammenti sonori, ricordiamo ancora, è presente anche nel blog 451frammentisonori.noblogs.org, dove potrete trovare le informazioni e le puntate da riascoltare. Se siete interessati, ovviamente è un percorso anche lungo, perché le registrazioni non è che siano particolarmente veloci, ma la prima parte e la seconda parte sono sempre inserite all'interno di ogni singola trasmissione linkata dentro il blog. A questo punto noi ci salutiamo, io vi auguro la buonanotte in questa notte ancora piovosa di Bologna, vedremo un po' cosa succederà. Intanto vi lascio a un altro brano, un brano che io considero veramente il più bello di questo doppio album, un brano che chiaramente riferito alle composizioni, alle sonorità espresse dal grande Erik Satie, e qua veramente si sente molto l'influsso e il riferimento. E lo chiudiamo in questa maniera il percorso sonoro di stasera, No Ambient 2, ricordiamo ancora Rumore, Flusso, Spazio e Materia, e noi ci lasciamo con Fennez Sakamoto. Buonanotte e buon ascolto poi con i programmi di Radio Città del Capo. Thank you.